Ingrato Manlio, ascolta, perché un altro m'abbracci, non ti impone, Tita sia tua consorte, abbraccia il tuo destino, io vado a morte. Manlio, oddio, tu mi lasci, ti lascio, ed a te lascio la fede amante pria, poscia, disputo, e supplica te lascio di conceder perdono a chi frate tu uccise e all'onorata cagione per cui l'uccise. Lascio la pace al cor e infin ti lascio l'ultima mia preghiera d'amortito la legge, la volontà degli astri e la tua sorte. Roma, la mia costanza e la mia morte. Oh, che tu non mi lasci e ti comporti lasciarti di più.